E allora buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Questa è ovviamente Entropia Massima, come tutti i lunedì sera, la trasmissione di Scienza e Tecnologia che ormai va avanti da un ventennio. E questa ovviamente è la nostra bellissima sigla dei King's Crimson che sfumiamo per andare in voce. E questa sera ciclo tecnologico, estrattivismo dei dati, che ritorna dopo un po' di assenza. Ci siamo alternati un po' con tutte le altre gli altri cicli, le altre trasmissioni. E per portarvi questa sera un contributo che sarà ancora una volta sull'intelligenza artificiale, che quest'anno insomma stiamo seguendo abbastanza vicino, no? All'interno dei nostri ragionamenti sull'economia dei dati, sul capitalismo della sorveglianza. E proprio in questo contesto si ascrive, si vuol dire? Diciamo l'approfondimento, la presentazione che vi facciamo questa sera di una azienda che si chiama Palantir, una realtà aziendale statunitense che è nata e si è sviluppata nell'humus culturale ed economico della Silicon Valley e che quindi è chiaramente molto interessante, andare a osservare per comprendere come funziona il capitalismo della sorveglianza, una società piuttosto controversa che quest'anno ha preso parte, è stata invitata al tradizionale World Economic Forum, il forum mondiale sull'economia di Davos, che si è concluso una decina di giorni fa, e quindi per questo motivo insomma ci siamo interessati a questo intervento in quello che è uno, diciamo così, un simposio del sistema capitalista mondiale ormai da moltissimi decenni, e quindi volevamo insomma presentarvi un po' questa società, il suo patron e molte altre cose che insomma abbiamo trovato preparando la puntata. E do chiaramente il benvenuto a Stefano. Buonasera a tutti, ascoltatrici e gli ascoltatori. Quest'anno insomma, salve, insieme a me lo sentite sempre. Sì, ci siamo, diciamo, spesso, che il ciclo tecnologico spesso. Diciamo ormai lo facciamo insieme. E quindi gli cedo senz'altro la parola per iniziare un po' a parlare del tema. Allora, certo, Davide, allora grazie. E dicevi bene, insomma, Palantir è una società abbastanza controversa. Ci è venuto un po' in mente di raccontarla proprio sulla scia di questa grande visibilità che ha avuto anche a Davos. Ora, Palantir è una società che ai più esperti di moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione è nota da molto tempo, insomma è una società che è stata fondata nel 2003, per cui è attiva da tanto tempo. Però perché ci sembra attuale parlare di Palantir e del suo carismatico ed eccentrico amministratore delegato, CEO, no? Come dicono gli inglesi, nonché uno dei fondatori della compagnia, Alex Karp. Karp scritto col K, con la K. Perché ci pare che Palantir possa avere davvero un ruolo didascalico, diciamo paradigmatico, incarnando in maniera abbastanza emblematica il mondo odierno, un mondo che è trainato, come si sa, ne parliamo ogni volta anche qui, da una potente economia digitale di stampo ultraliberista, ma che è ricco allo stesso tempo di contraddizioni profonde, frutto della promozione della vendita, che non è una vendita soltanto economica, di prodigiose utopie ed innovazioni che hanno un enorme valore scientifico e tecnologico. Citavi, diciamo, l'intelligenza artificiale, noi ne parliamo tanto, no? Ecco, pensate appunto all'accelerazione spaventosa dell'ultimo anno in questa materia. Ma che presentano però queste prodigiose ed utopistiche innovazioni ripercussioni che sono disturbanti, distopiche su molti piani, come ad esempio da un lato i contesti e gli scenari bellici che sono tristemente noti e tanto attuali, e dall'altro gli impatti sui principi e i fondamenti di istituzioni democratiche. Pensate per esempio al tema della protezione e della riservatezza di dati personali, oppure alle distorsioni individuali e collettive, diciamo sociali, da sovraesposizione informativa, da quella che è a tutti gli effetti una bulimia di dati in corso ormai da tanti anni. Allora, noi da questi microfoni abbiamo parlato molto nell'ultimo anno solare di queste contraddizioni, di questa tensione che c'è tra utopia e distopia, ed abbiamo cercato di fornire un servizio che stimolasse la capacità critica di ascoltatori ed ascoltatrici di questa emittente su questi temi, no? La capacità di sforzarsi a ragionare e a guardare un po' oltre l'ovvio e l'immediato. Perché lo abbiamo fatto? No? Lo abbiamo fatto perché riteniamo che sia compito di tecnologi come noi rivelare, divulgare, o perlomeno cercare di farlo, anche punti di vista un po' più nascosti alla maggioranza delle persone, no? Meno evidenti o comuni. Punti di vista che poi scaturiscono semplicemente dal fatto che noi studiamo per lavoro queste cose ogni giorno, approfondiamo molto aspetti certamente tecnici, per definizione, diciamo, il nostro lavoro, ma anche di impatto, e quindi poi conduciamo riflessione ad ampio spettro su questi argomenti. Quindi, in linea con questo approccio, quindi abbiamo toccato diversi temi che giudicavamo importanti, no? Dal potere economico e politico dell'industria big tech alla sperimentazione e l'uso da parte di questa industria di tecnologie potenti come quelle della data analytics e dell'intelligenza artificiale, che oggi vediamo ricorreranno molto, in palcoscenici peraltro strategici di guerra e di intelligence. E infine abbiamo raccontato tematiche relative ai tentativi concreti di comprendere attraverso iniziative mirate come summit internazionali che ci sono stati nel corso di questo recente passato, e anche di limitare attraverso norme come quelle approvate in Europa quegli impatti potenzialmente destabilizzanti di un impiego deregolamentato dei nuovi strumenti di potere, un impiego che è guidato soltanto da obiettivi economico-finanziari di accrescimento della produttività e della competitività di tutto il sistema di produzione e consumo in questa parte di mondo. Bene, però Palantir che c'entra con tutta questa roba? Allora, Palantir Technologies, questo è il nome diciamo completo, è, come diciamo, un'azienda per l'appunto statunitense che è specializzata nell'analisi dei big data, no? Detta in inglese big data analytics, questo termine l'abbiamo già usato anche qui a Entropia Massima. Questa che cos'è? Una disciplina che abilita tutta la moderna economia digitale di oggi, ok? Ricerche online, social networking, raccomandazione di prodotti e contenuti sulle più note piattaforme di e-commerce e di pagamenti e di streaming, pubblicità mirata, personalizzazione delle esperienze di ogni genere, dal gaming a ogni altro tipo di esperienza, pagamenti, abilitazione ai pagamenti elettronici, uso nei moderni veicoli cosiddetti smart che tra poco saranno appunto a guida autonoma. Cioè, potrei andare avanti ad libitum, no? Includendo per esempio tutte le più sofisticate forme di intelligenza artificiale odierna di cui abbiamo avuto modo di disquisire diffusamente, no, in una bella puntata la scorsa primavera. Ora, questa competenza in analisi di enormi quantità di dati con algoritmi potenti e sofisticati, che è ovviamente la stessa dei giganteschi attori noti, noi cosiddetti Big Five, Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft. Quindi questa competenza, Palantir, il cui nome peraltro deriva dalle pietre vedenti o veggenti del Signore degli Anelli di Tolkien, Palantir esibisce questa competenza brillantemente, questo va detto, in una serie di prodotti software, alcuni dei quali sono appunto piuttosto controversi e che sono destinati, sono dei prodotti destinati ai suoi principali e storici clienti, clienti internazionali, quindi opera diciamo su scala globale, che sono attivi nelle seguenti tre industrie. Sono tre industrie. Allora, la prima è l'intelligence, quindi qui parliamo di servizi segreti, servizi di sorveglianza, no? Per intenderci. Il secondo è la finanza, l'alta finanza, quindi fondi di investimento, grandi banche, istituzioni finanziarie. E il terzo, la terza industry, come si dice in inglese, la terza industria, è quella della guerra. Quindi i suoi clienti sono eserciti, sono ministeri della difesa. Allora, vediamo velocemente questi prodotti controversi, no? E cominciamo quindi a capire perché possa avere senso discuterne proprio in questo periodo storico. Allora, il primo che vi cito si chiama Gotham. Che cos'è Gotham? Gotham è un sistema di polizia predittiva. Ed è un sistema che è utilizzato in vari luoghi, in vari stati, ovviamente soprattutto in Nord America, chiaramente. Ed è accusato di essere impiegato come un sistema di sorveglianza con pregiudizi di natura razzista. Ok, quindi che cos'è la polizia predittiva? Infatti, no? Predittiva in che allora, senso? La polizia predittiva cioè, è interessante, prima ancora che tu commetta un reato, prima ancora che un reato capiti in una certa zona geografica, non lo so, pensate a un quartiere di una grande città piuttosto che una zona di provincia. Il sistema allerta le forze dell'ordine e dice: attenzione, qui si sta per verificare un crimine, agite. Come fa a fare questa cosa, no? Allora, ora non possiamo spiegarlo nel dettaglio come sempre, però che cosa succede? Possiamo che dare un'idea. Il tema proprio, cioè il modo in cui riesce a farlo risiede nelle tre parole Big Data Analytics, analisi delle grandi quantità di dati. Allora, è possibile, correlando informazioni ad esempio su una zona, no? Correlando appunto dati relativi a una zona, dati che fra di loro non hanno alcuna in apparenza legame con la criminalità, il crimine, no? Pensate che sono dati meteorologici piuttosto che la geomorfologia di una zona, ok? Allora, attraverso la potenza degli algoritmi e dei sistemi che Palantir anche diciamo sviluppa, è possibile cominciare a capire che magari in una certa data della settimana, in un certo giorno della settimana, quando ci sono particolari condizioni meteorologiche, se la conformazione del territorio, ad esempio pensate a un quartiere, quanto verde c'è, quanto non ce n'è, quali sono le tipologie di abitazioni di quella zona, si verificano dei crimini. E così la polizia che cosa è in grado di fare? È in grado di avere proprio un'allerta predittiva, no? Che diciamo determina un'azione, in quel caso magari un aumento delle pattuglie per le strade. Ora, questa cosa, se la spostate sugli individui, è la stessa identica, no? Allora, gli individui che hanno una certa tipologia, un certo genere, di una certa razza, che vivono in una certa zona con le caratteristiche che dicevamo prima, che hanno una certa storia personale su diciamo ogni ambito che vi può venire in mente, che ormai, no, è facilmente accessibile, no, vista la pervasività dei sistemi con cui comunichiamo ogni cosa, ecco, la stessa profilatura di rischio, se vogliamo, in questo caso per la polizia, di un certo individuo, può dare vita al fatto che io in maniera anticipata vengo da te e ti dico: è bene che quel giorno lì ti presenti magari al commissariato, o comunque faccio attività diciamo appunto di prevenzione del crimine, di un crimine che non c'è stato però, ma che potrebbe essere perché un sistema predittivo l'ha identificato, l'ha individuato. Quindi Gotham, questo è il primo sistema diciamo di e ovviamente, quindi scusate, la cosa importante qual è? È che chiaramente il dato abilita questa capacità previsionale, ma ancora una volta il dato, se è viziato, se il dato ha dei pregiudizi, se il dato, no, come al solito magari ritiene che una certa tipologia, una certa etnia sia più soggetta a delinquere di un'altra, anche se questo non è vero, tenderà a evidenziare questo, perché di nuovo le previsioni sono di natura statistica, sono l'effetto di un addestramento su dei dati storici che hanno determinate caratteristiche. Il sistema non inventa nulla, non è un sistema intelligente. Beh, del resto, se okay, si basa sulla statistica, ad esempio basterebbe contare il numero di persone nere detenute nelle carceri statunitensi, per capire che, certo, che diciamo, la statistica parla chiaro, no? E quindi, quindi i neri delinquono di più, se stanno più in carcere, delinquono di più. E quindi questa è solo una scemenza. È la fonte della controversia, no? Il fatto che, per esempio, di nuovo, per tornare a quegli altri esempi che facevo sulle zone, no? Magari ci sono delle zone che sono considerate, per esempio, zone in qualche modo un po' malfamate, o piuttosto che però magari hanno dei tassi che non sono necessariamente elevati di criminalità, e quindi è diciamo un pregiudizio statisticamente qualificato. Esattamente, con tutto quello che questo comporta. Vediamo rapidamente il secondo e il terzo sistema, no? Allora, il secondo sistema si chiama Metropolis. Che cos'è? È un sistema di analisi predittiva utilizzato in ambito finanziario, no? Quindi è uno dei sistemi classici che oggi si utilizzano tantissimo, no? Nelle borse, anche nei grandi fondi di investimento. Che cosa fa? Questo sistema è in grado di assistere in modo intelligente, tra virgolette, ed è guidato da tantissimi dati eterogenei, no? Provenienti dalle più diverse e disparate fonti, sia pubbliche che private, no? E serve per diciamo, come dire, anticipare guadagni in un investimento di un certo capitale che queste istituzioni magari fanno, no? Qual è il problema? Qual è la controversia che pende su questo Metropolis? È che a un certo punto sembra che, da articoli che abbiamo trovato, che il suo impiego, che ci sia stato un suo impiego per il monitoraggio sistematico di impiegati di un fondo di investimento, no? A scopo di controllo e sorveglianza dei comportamenti. Quindi la stessa modalità che poi è sempre la stessa, cioè trovare delle generalità che in qualche maniera sono giustificate dalla statistica, e quindi per fare questo è opportuno avere a disposizione tanti quantitativi, grossi quantitativi di dati. Ecco, gli stessi dati che sono utilizzati per la previsione di investimenti, quindi per il core business di queste istituzioni in cui trova spazio ed impiego, ecco, è stato invece piegato a un altro obiettivo, cioè all'obiettivo di capire se determinati impiegati di un certo fondo investimento fossero in qualche maniera non strumentali magari al disegno e al, come dire, no, alla linea di guida, diciamo, principale dello stesso fondo. La terza soluzione è quella più recente, no? Si chiama Artificial Intelligence Platform. Questa sarà sviluppata e dispiegata nell'aprile del 2023, quindi poco meno di un anno fa, ed è una piattaforma che integra l'uso di modelli di linguaggio come ChatGPT e i suoi simili, per intenderci, no? Così tanto popolari ormai. Ecco, l'integrazione di questi modelli in sistemi e reti private, no? Di ogni genere. Il punto è che l'uso è stato dimostrato proprio in contesti bellici, no? Quindi che cosa succede? Immaginate, per esempio, un operatore militare sul campo di battaglia che improvvisamente è in grado di compiere delle azioni sul campo di battaglia. Immaginate quali possano essere queste azioni, e di effettuare delle scelte tattiche, no? Improvvisate, no? Attraverso un'assistenza continua di un chatbot opportunamente addestrato, no? Che impara dai dati di guerra, dai dati di contesto bellico, utilizzandoli per fare assistenza, ma anche per il suo continuo addestramento, no? Per diventare un assistente militare sul campo sempre più affidabile ed esperto. Okay? Allora, un primo, per chiudere, no? Un primo aspetto, questa prima parte, un primo aspetto evidente in tutto questo è, a nostro avviso, quanto strategico sia il ruolo di dati ed algoritmi oggi, attraverso strumenti come quelli di Palantir, proprio nei gangli fondamentali del potere occidentale, no? A dispetto di temi tanto cari al mondo di qua, no? Al nostro mondo, no? Come la giustizia, la democrazia, la libertà, l'eguaglianza, la pace, no? Allora, polizia, intelligence, finanza estrema, guerra. Ok? Questo è ciò che Palantir e i suoi sistemi ci raccontano in maniera così diretta, chiara, trasparente, no? Però forse un'ulteriore riflessione andrebbe sempre condotta anche a più ampio raggio, su tutta l'industria big tech, con targa, diciamo, californiana, dove c'è scritto San Francisco, no? E Silicon Valley. Un'industria a cui ogni giorno è proprio ciascuno di noi a conferire un enorme potere, no? Semplicemente attraverso l'uso certamente affascinante ed affascinato, no? Ma comunque sempre passivo, poco critico, degli strumenti che periodicamente ci vengono regalati ed imposti di fatto come inevitabili al progresso e alla modernità, okay? Ma che poi servono ad affinarne altri di strumenti, no? Quelli di cui si parlava, strumenti che sono dello stesso tipo in quanto basati sulla medesima data analytics e sempre necessari al progresso, un progresso che però sembra, diciamo, corroborare, rinforzare sempre di più i pilastri di un sistema di potere economico-politico che, come raccontano i clienti tipici storici di Palantir, si basa moltissimo su denaro, su controllo, su violenza. Denaro di cui un numero sempre minore di entità globali gigantesche dispongono in enormi quantità e sempre più individui in scarse quantità, no? Almeno relativamente alle precedenti, no? Quindi una forchetta che si amplia tra ricchi e poveri. E controllo e violenza è che un numero sempre minore di soggetti sarà, volendo, in grado di esercitare su un numero sempre maggiore di individui, in un numero anche questo sempre maggiore di contesti e di circostanze. Per cui, diciamo, questo è un primo punto che mi piaceva condividere, insomma. Abbastanza impattante. Direi che ci prendiamo una pausa musicale e ritorniamo in voce subito dopo. Tanto numero 06 49 17 50 se volete chiamarci, intervenire, farci una domanda. E ascoltiamo adesso un brano che non ha bisogno di presentazioni. E allora, di nuovo in voce, ad Entropia Massima, stiamo parlando di intelligenza artificiale, in particolare stiamo parlando della società Palantir, l'abbiamo presentata nella prima parte di trasmissione e abbiamo, insomma, un po' elencato quelli che sono i prodotti software su cui si basa il business di questa azienda. Un po' controversi, no? Parecchio, direi. E così come controversa è anche la figura del CEO, giusto? Come no? Beh, sì, sì, è interessante parlare di Alex Karp. Alex Karp è appunto lo spregiudicato amministratore e uno dei fondatori di Palantir. No, è interessante parlare di lui per quello che rappresenta. Anzitutto, l'aspetto interessante è che Alex Karp si dichiara in maniera anche in qualche modo veemente difensore dei diritti digitali, quindi paladino della protezione dei dati, fautore di una sovranità digitale di individui e stati. Che significa? Questo ci piace. Certo. Allora, ora ci arriviamo. Okay. In una bella intervista in cui il personaggio... Ora immaginatevelo, poi potete andarlo facilmente a cercare, insomma, no? Alex Karp, scritto appunto con la K, una specie di Elon Musk, però secondo il mio giudizio molto più affascinante, no? Molto erudito, un poliglotta, no? Con tanto di dottorato di ricerca in filosofia all'Università di Francoforte, no? Anche lui molto carismatico, spesso originalissimo, in modo ostentato nell'abbigliamento, sicurissimo di sé e del suo ruolo messianico, no? Salvifico del pianeta, come molti di questi personaggi, no? Attraverso salvifico perché attraverso la messa a punto e il controllo di cose che sono troppo difficili da capire per le masse si riuscirà, no, a definire il nuovo percorso da seguire per il progresso utile a tutti. Quindi dicevo, in un'intervista artatamente congegnata con una sua eccellente dipendente, una ex accademica tedesca preparatissima, esperta in tema di privacy e protezione dei dati, o di privacy come dicono gli americani, questa intervista la trovate in rete. Raccontava Karp come solo Palantir, che queste cose le fa da 20 anni, possa davvero capire che cosa significa rispettare la sensibilità e la criticità dei dati, non altri. Allora, a Palantir è chiaro che dovranno esservi regole all'industria big tech, perché diceva in un ottimo tedesco sottotitolato in inglese: altrimenti pochi grandi soggetti domineranno il pianeta, e questo non è tollerabile, no? Questo lui l'ha ribadito proprio anche a Davos, no? Il nostro incipit, no? Cioè, ha incuriosito questa dichiarazione, questo richiamare, no? Anche questo contrasto che lui ha con i big five. No, che ovviamente Big Five, che hanno delle dimensioni economico-finanziarie centinaia di volte superiori a quelle di Palantir, cioè stiamo parlando di questo livello, no? Anche se di Palantir... Google, Microsoft, sì, esatto, Facebook, esatto. Apple, e loro hanno dimensioni che sono 100 volte, che ne so, il fatturato è 100 volte, insomma. Palantir fattura un miliardo, diciamo, di dollari, grosso modo, insomma, quelli stanno sulle centinaia. Però lui che cosa ha fatto? È entrato sempre in, è stato un grande contrasto con Big Five, e se n'è andato proprio da Palo Alto, cioè lui dalla Silicon Valley è andato via, prima a Denver, cioè la sede americana, adesso è a Denver in America, e dopo a Londra, Denver in Colorado, se non sbaglio, e dopodiché a Londra ed in giro per il mondo, che conta e che conterà. Quindi ovviamente le ramificazioni sono anche ovviamente in Asia e comunque nei paesi diciamo anche di prospettiva, no? Anche ovviamente in India, quindi ha un po' lasciato, quindi volendo, come dire, enfatizzare sempre una posizione abbastanza critica con i Big Five. E lui appunto a Davos ha ribadito questi concetti auspicando bilanciamenti di potere. Ora, questa sarebbe una cosa fantastica, cioè oggettivamente questa sarebbe una cosa fantastica, Davide, lodevole, se non fosse però pure confondente, no? Se non desse adito ad un'interpretazione che, come dire, potrei dire alla romana, no? La butta un po' in caciara, no? Anche qua però questo è tipico dell'industria e degli attori big tech, no? Un colpo al cerchio e uno alla botte. Che senso, no? Perché? Perché se da un lato, diciamo, l'uomo Carpe e la compagnia Palantir si dichiarano favorevoli a misure restrittive di quella mano libera globale che i grandi big tech hanno messo in azione ormai da 25 anni e che vorrebbero continuare ad utilizzare senza restrizioni in ogni parte del pianeta per la raccolta gratuita e senza permesso dei dati, no? La materia prima più preziosa per le loro attività e i loro mezzi di produzione, gli algoritmi. Dall'altra, Palantir spinge l'acceleratore sulla partecipazione diretta proprio a quel sistema di capitalismo neoliberista di cui parlavamo prima, cioè un sistema in cui il progresso tecnologico di punta, rappresentato oggi proprio dalle soluzioni di Big Data Analytics, è al contempo leva potentissima e risultato ultimo da espandere ad ogni costo in qualsiasi dominio di intervento, sia privato che anche pubblico. Cerchiamo di essere più concreti anche per gli ascoltatori. Allora, prima cosa, una bellissima inchiesta del Washington Post del 2022, no? che leggevamo, rivela come Palantir sia stata la prima compagnia americana ad incontrare il presidente dell'Ucraina Zelensky dopo l'inizio del conflitto con la Russia. Quindi Carp si è precipitato, no? Si è impegnato a supportare l'esercito ucraino con il suo software intelligente, no? Di cui parlavamo prima, ed ha stretto accordi con il ministro della trasformazione digitale Fedorov per partecipare, diciamo, da protagonista anche nella successiva fase di ricostruzione post bellica. Per cui pare che lui abbia dichiarato prima la vittoria, dopo la prosperità, no? al presidente all'establishment ucraino, no? Quindi conflitto ucraino, volendolo leggere, è usato prima come beta tester, diciamo, per l'uso e l'affinamento di armi intelligenti, no? Che peraltro le norme UN, ancora qui, no? In linea con una delle facce di CARP, vieta, no? Vieta le armi intelligenti, ne avevamo parlato in una scorsa puntata. Le armi autonome. Le armi autonome, esatto. Quindi conflitto usato prima come ambito di uso di armi intelligenti e dopo, no, alla fine del conflitto, come trampolino di profitto e di influenza politica della nazione. Okay? Questo è interessante, no? Quando si parla di come si conducono le guerre e quali sono, diciamo, interessi che ci sono in gioco. Ancora, Palantir fornisce attualmente strumenti e tecnologie di cui abbiamo parlato, di cui si diceva anche poco fa, rispetto alla guerra in Ucraina, all'esercito israeliano nella guerra contro la Palestina a Gaza. Magari fornisce proprio quella piattaforma di intelligenza artificiale, no, di cui parlavamo prima, no, che diciamo integra al suo interno i modelli generativi stile ChatGPT per avere degli assistenti, dei chatbot di assistenza al combattente sul campo. Qualche settimana fa Karp, insieme a Peter Thiel, che è uno degli altri fondatori di Palantir, è un uomo d'affari tedesco americano piuttosto controverso, in passato finanziatore di Donald Trump. E Karp cura invece tra virgolette i democratici, no? Quindi questo è anche una volta tipico cerchiobottismo, no? Cioè nel senso, no, io molto tipico nelle lobbying, nell'attività di lobbying americana, no? Cosa hanno fatto Thiel e Karp? Hanno organizzato volutamente il primo board meeting di Palantir per l'anno 2024 a Tel Aviv. Okay, questo è successo poche settimane fa, anche questo, e ne parlano giornali israeliani come Times of Israel, per esempio, testimoniando vicinanza e consenso pieno alle azioni militari, ormai è chiaro decisamente a tutti, completamente fuori misura di Israele ai danni di Gaza, no? E della sua popolazione civile, e che pare finora abbia distrutto soltanto il 20% delle infrastrutture di Hamas e tra il 25 e il 30% delle sue forze, no? E questo lo dico con tristezza grande. Anche qui però è interessante la disponibilità, no? Pensare alla disponibilità dal punto di vista di Palantir, no? Di un enorme test bed, no? Di un campo di sperimentazione reale per le tecnologie di Palantir sul suolo palestinese, no? Verrebbe da pensare un po' questo, no? Tecnologie che imparano dai dati di un conflitto, no? Tanto meglio quanti più sono i dati, no? Tanto più lungo il conflitto, no? Tanti più dati io raccolgo su un teatro di guerra, tanto più affinata è una tecnologia per guerre, tra virgolette, intelligenti, di cui parlavamo anche in una precedente puntata, no? Per cui questo è un altro aspetto molto concreto che racconta in maniera paradigmatica quello che accade, no? Il rapporto, no? Anche tra i business del mondo big tech e l'interesse, diciamo, in zone geopoliticamente complicate, no? Come quelle teatro dei conflitti attuali. Ultimo aspetto. Quindi, posto ideale, sì, per sperimentare, e idealmente più dura e meglio è, quindi... La cosa interessante è questa, che diciamo una piattaforma come questa hype di Palantir, in generale, diciamo, è il discorso che facevamo che accennavamo prima, rispetto ai sistemi di analytics in generale, vale per i modelli ovviamente generativi di linguaggio. Ancora una volta, no? Siccome qui si tratta per nulla di intelligenza alla umana, no? Ma questa non è intelligenza, è soltanto potere generativo, potere predittivo, tanto più accurato quanto maggiore è, come dire, la quantità di dati di addestramento in un certo ambito, no? E allora è chiaro che se tu hai bisogno di un assistente sul campo da guerra, tanto più lo eserciti attraverso i dati che raccogli dal campo di guerra, tanto più l'assistente, il chatbot, diciamo, soldato è capace, tanto più il chatbot soldato diventa in grado di avere una sua capacità di assistenza accurata ed utile. Il problema è che accurata e utile per scenari di guerra, cioè per un soldato che sta sul campo di guerra a sparare contro il nemico. Quindi questo è un tema. L'ultimo aspetto che volevo citare concreto era questo. Allora, Palantir ed alcuni suoi partner, che sono poi enormi multinazionali in ambito di consulenza strategica e tecnologica informatica, cito dei nomi che sono noti a quasi tutti: Accenture, per esempio, un'altra è PricewaterhouseCoopers, PwC, che è pure piuttosto nota, è una grande società di consulenza. Che cosa è successo? Hanno ottenuto 2 mesi fa il più grande contratto mai stipulato dalla sanità pubblica inglese. Parliamo di 330 milioni di sterline, sono poco meno di 400 milioni di dollari o di euro, insomma. Okay. Per fare cosa? Per un informatizzatore, diciamo, un'informatizzazione, mettere in piedi un'informatizzazione scalabile ed intelligente, no, tra virgolette, di tutti i sistemi informatici della cosiddetta NHS, no, il sistema sanitario nazionale pubblico inglese. E questo è interessante, no? I software di sorveglianza Palantir ed i dati più sensibili che ci siano, quelli sanitari di decine di milioni di persone. Noi i dettagli, diciamo, tecnici della soluzione che metterà in campo Palantir con i suoi partner non la conosciamo, quindi da tecnici quali noi siamo non possiamo esprimerci sulle sue caratteristiche. Chissà quale parte di CARP deciderà, no? Il difensore di regole e diritti o il sorvegliante, diciamo, guerrafondaio incallito? Intanto, diciamo, alcuni in Inghilterra si sono arrabbiati, no? Sono arrabbiati e secondo, diciamo, articoli riportati sui media inglesi, parliamo di dicembre scorso, in molti sono scesi in piazza a Soho Square, una piazza che mi è molto cara e dove c'è la sede di Palantir, la sede londinese di Palantir, per protestare contro l'attribuzione di soldi pubblici ad una compagnia privata che li reinveste e fa profitti sulla guerra di Israele, tanto, e per esempio su questioni come quelle di cui parlavo prima, sull'implementazione di forme di polizia predittiva. Ok, quindi ci sono state molte manifestazioni di dissenso, e comunque in generale anche a livello di politica c'è una grande ci sono polemiche rispetto a questa attribuzione di fondi, no? a questo affidamento che c'è stato. In mezzo a tutto questo, diciamo, niente, cerchiamo una chiosa a questo punto su questa parte. Quindi dicevamo di Palantir e di Alex Karp come emblemi di un'industria potente come quella Big Tech, no? Difficile dire la più potente di sempre, di sicuro la più fiorente, visto che, diciamo, le recenti capitalizzazioni di mercato parlano di trilioni di dollari, no? Per un numero crescente di aziende. Ovviamente le prime sono le più grandi, ma insomma l'apprezzamento di mercato dell'industria Big Tech è crescente. Questa industria però confonde, diciamo, le acque dietro la complessità dei suoi prodotti, aprendo, diciamo, a regolamentazioni giudicate giustificabili e necessarie, però allo stesso tempo si connota per processi operativi che invece sono molto chiari, no? In cui proxy geopoliticamente strategici, come si diceva, fanno il gioco di sperimentazioni e di sviluppi di una tecnologia sofisticatissima che va prima testata e poi venduta, no? Le guerre sono un campo di test ideale per il dispiego e l'uso di sistemi di analytics e di intelligenza artificiale guidati dai dati, che sono i prodotti di punta dell'industria Big Tech. E la pace dopo la guerra, no? Che richiede anch'essa pianificazione di ricostruzioni per transizioni digitali, energetiche, ambientali, no? Chi più ne ha più ne metta, ha ugualmente bisogno e beneficia di dati e soluzioni avanzate che da questi dati sanno trarre significati nascosti, evidenze nuove, implicite, per trarne profitto immediato da una parte e mezzi di ulteriore affinamento, diciamo, di nuove versioni di quei sistemi ancora più sofisticate delle precedenti dall'altra. Nel mezzo ci siamo tutti noi, no? Allora siamo tutti noi, che facciamo noi? Noi niente, consumiamo e produciamo con nonchalance, senza chiederci niente o chiedendoci molto poco. Produciamo che cosa? Materia prima gratuita, no? Andiamo ripetendo sempre anche da questi microfoni, a beneficio di questa industria tecnologica ricchissima e, come abbiamo raccontato, anche alla base, no, delle manifestazioni, se vogliamo, più deteriori del nostro mondo contemporaneo. Allora, forse magari qualche domanda in più al download della prossima, diciamo, dell'ennesima forse inutile app sul nostro cellulare, sul nostro computer portatile, perché questo è uno smartphone, un potentissimo computer portatile, dovremmo farcela, e forse dovremmo magari cominciare ad apprezzare di più ed anche a favorire, diciamo, interventi legislativi intanto, no? Che disciplinino questa industria, a manifestare per i nostri diritti digitali, no? A prenderne coscienza, ad informarci, ad educarci, ad educare i più piccoli, per poi chiederne conto a ragion veduta ai nostri rappresentanti, magari in Parlamento, nelle amministrazioni pubbliche, nazionali, locali, comunitarie, no? Ecco, magari questo potrebbe essere un e ciò di cui ci dobbiamo occupare seriamente, insomma, sì, in cui noi un po' crediamo, ecco, questa attitudine comunque a prendere intanto consapevolezza, a non lasciare che comunque tutto vada in una direzione che viene imposta dall'alto, essendo l'alto quello che abbiamo raccontato, di nuovo, no? Certo, Palantir inclusa. La consapevolezza in questo momento è la fase più importante, quella in cui siamo, ci troviamo in questa fase qui. Non sono argomenti difficili, no? Noi li portiamo in trasmissione da molti anni, però oggettivamente sono argomenti che non sono ancora patrimonio. No, è chiaro, io quando parlo infatti di cominciare a farsi domande, cioè nel senso, farsi domande significa anche quello che dicevo prima, no? Cominciare in qualche modo a capire che ci sono dei diritti, cominciare a capire che ci sono delle alternative, no? Non si risolve tutto subito, no? Allora, certo. se adesso magari in questa parte che resta racconteremo un po' di magari un po' di queste iniziative, ritorneremo magari su queste iniziative, proprio perché avere coscienza del fatto che ci sono comunque delle leve che si possono attivare per far valere i propri diritti, no? E si sta operando per qualcosa che non è orientato, come invece viene detto proprio da molti degli attori big tech, a arrestare o a soffocare il progresso tecnologico, è semplicemente orientato magari ad arginare un certo tipo di progresso tecnologico che, non avendo derive, intacca o può intaccare e sta intaccando sempre più aspetti importanti, rilevanti all'interno anche di avanzate società democratiche. Ecco, questo è un po'. E infatti dopo la pausa musicale vi faremo sentire un po' di iniziative normative in Europa. Torniamo un attimo, sì, del nostro vecchio continente, e da lì vi facciamo un po' il punto della situazione di normative. Abbiamo parlato varie volte e quindi ogni tanto ci vuole un aggiornamento. Bene, allora facciamo un'altra pausa musicale. Ci ascoltiamo questo live dei Kraftwerk, The Robots. Allora, rieccoci in voce. Abbiamo parlato tutta la puntata di Palantir, questa controversa azienda americana che agisce, tra le altre cose, anche nel mondo bellico, ed effettivamente dalle notizie che abbiamo trovato è impegnata proprio sui fronti su cui gli Stati Uniti sono più interessati in questo momento, quindi da una parte l'Ucraina, dall'altra il conflitto che Israele ha dichiarato al popolo palestinese, tutto il genocidio che è in atto in quelle zone, e a cui naturalmente uno, chi è lì, deve resistere. Sembra che ci sia ancora di più un ruolo giocato, no, da Gaza in questo momento di perverso laboratorio per esercitazioni belliche reali, però con la popolazione sotto, no? E quindi qui il discorso di quello che si faceva, cioè, di nuovo, no, ritorna questo tema della poi di tutta la raccolta e diffusione dei dati. Insomma, c'è tantissimo di altro, ci sono tantissime altre tecnologie che sono dispiegate, pensate ovviamente ai droni oppure alle costellazioni di satelliti, che svolgono comunque un ruolo importante per mappare i territori, gli spostamenti delle truppe, abbiamo parlato un po', l'abbiamo chiamato conflitto di Israele, perché diciamo che essenzialmente è una guerra abbastanza, diciamo, unidirezionale, è un massacro, un genocidio, certamente lo è nelle dimensioni sproporzionate tra le parti, insomma. E c'eravamo un po' ripromessi in questa ultima parte di trasmissione anche di presentare gli aspetti normativi, quindi, no, torniamo nel vecchio continente, in Europa, e vediamo quali sono le iniziative legislative per far fronte allo strapotere degli agenti del capitalismo della sorveglianza. Perché lo facciamo? Perché ci interessa un'ottica riformista? No, non è questo il punto. È che serve a comprendere, come dicevamo, quali sono i nostri diritti, come possono essere tutelati, ad esempio dagli stati, cosa stanno facendo gli stati, e questo ci aiuta ad aumentare la consapevolezza. E in particolare abbiamo parlato in precedenti puntate delle AI Act, la legge sulla Artificial Intelligence, sull'intelligenza artificiale, che è il primo regolamento UE sul tema, e è anche il primo al mondo che è stato è stato redatto. Siamo ancora in attesa dell'approvazione finale, quindi diciamo le versioni che attualmente sono disponibili, che si trovano online, sono versioni consolidate ma non sono ancora ufficiali. Una è di 892 pagine, che include anche la proposta originale della Commissione europea, e accanto ai mandati del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'altra è un documento consolidato di 258 pagine, però non è ancora quello approvato, quindi siamo in questa situazione. E inoltre dal momento in cui verrà effettivamente reso dal momento in cui comincerà ad essere attuato. Ci vorranno poi 2 anni prima che entri effettivamente in vigore, quindi sappiamo che 2 anni sono un lungo tempo in questo campo, però insomma vediamo un pochino a che punto siamo, no? Vogliono istituire un ufficio per intelligenza artificiale e un gruppo di esperti all'interno della comunità europea, dell'Unione Europea, degli uffici di Bruxelles, quindi l'idea alla base è quella di proteggere i diritti e valutare anche l'impatto che queste tecnologie hanno sui diritti, sulla società in generale, e quindi di scrivere degli obblighi per i vari operatori dei sistemi di IA che attualmente stanno in questo business, e non sono tanti. Queste limitazioni vengono modulate, quindi ci sono dei sistemi che sono più a rischio, dei sistemi che sono assolutamente inaccettabili e poi dei sistemi con un rischio minore, e c'è tutta una gradazione di sanzioni pecuniarie e reclami che si possono effettuare. Arrivano fino al, mi pare, il 7% del... come si chiama, del turnover, penso della, allora il 7% del fatturato, 7% del fatturato in alternativa, però quindi sono da 7,5 milioni di euro o l'1,5 del fatturato globale fino a 35 milioni di euro, oppure il 7% del fatturato globale, a seconda insomma che naturalmente del tipo di infrazione e delle dimensioni dell'azienda, quindi perché il 7% del fatturato comincia a essere sulle aziende grandi e si avvicina al profitto, cioè nel senso che gli togli il profitto, sì. Praticamente gli levi praticamente il profitto, sì, diciamo una parte quantomeno, parte rilevante, una bella parte, sì. Quindi insomma c'è tutto un sistema, un articolato sistema di sanzioni. Il Consiglio dell'Unione Europea ha finalizzato il testo che appunto ha incluso anche delle revisioni fatte durante la presidenza ceca. Abbiamo visto che ci sono state, insomma, è stato abbastanza difficile partorire questo testo perché tante erano le questioni che ogni stato della comunità dell'Unione Europea ha voluto portare. Vediamo un po' l'articolazione di rischio inaccettabile, alto rischio e rischio limitato, così capiamo, esatto, anche sì, nello specifico che cosa significano queste tre definizioni. Allora, rischio inaccettabile: il rischio è considerato inaccettabile, quindi c'è il divieto sostanzialmente, sì, ad operare in ambiti con che hanno questo rischio, quando si vanno a ledere i diritti fondamentali delle persone. Quindi, per esempio, sistemi di sorveglianza sociale che valutano il comportamento sociale delle persone per ottenere benefici o sanzioni. Questa roba qui è vietata. Quindi Palantir, Gotham lo buttiamo via. Infatti, esatto. Software di riconoscimento di Carp che esattamente. Che accetta le software di riconoscimento facciale utilizzato per identificazioni biometriche in luoghi pubblici, che naturalmente possono minare la privacy e la libertà individuale. Quindi questi sono proprio punti inaccettabili. Poi ci sono alto rischio, le situazioni in cui ci sono degli ambiti critici dove se c'è un malfunzionamento si possono causare dei danni significativi, esempio sistemi di AI utilizzati nella diagnostica medica, chiaramente quelli che per esempio aiutano nella diagnosi del cancro attraverso l'analisi di immagini radiologiche, certo, evidentemente c'è un alto rischio. Certo. Algoritmi di intelligenza artificiale impiegati per il controllo del traffico aereo, anche qui abbastanza chiaro, chiaro come, certo, come definizione, come esempio. E in generale per la sicurezza dei trasporti, sistemi di valutazione del rischio utilizzati nel settore finanziario per il credito e l'assicurazione. Questi sono quelli che vengono considerati ad alto rischio. Infine, terza categoria, ci sono quelli a rischio limitato, chatbot utilizzati per il servizio clienti, si possono usare, è richiesta però la trasparenza in questo caso, eh? È richiesta la trasparenza riguardo al fatto che gli utenti stiano interagendo devono, con un devono sistema. Devono essere posti a conoscenza del fatto che stanno interagendo con un agente artificiale, non con un essere umano. Giustamente. e sistemi che utilizzano utilizzati per la selezione dei CV. Certo. No? Sì, forse questa cosa andrebbe detto, diciamo, gli ascoltatori e le ascoltatrici magari non sanno che la prima parte dei processi di scrematura dei CV, dei curricula inviati per una selezione personale, oggi avvengono e avverranno sempre di più sulla base di sulla base di operazioni condotte da agenti automatici. Quindi fondamentalmente non ci sarà mai un essere umano che valuterà in prima istanza il curriculum di un candidato. C'era prima una scrematura da parte di un agente automatico, magari anche in una seconda battuta, e poi andando avanti, diciamo, nel processo di selezione a un certo punto comparirà anche il cristiano, diciamo. Però insomma questo è importante. Quindi che cosa succede a questo riguardo? Diciamo il 2 o il 9 febbraio è previsto il voto finale del Consiglio europeo, quindi poi vedremo effettivamente qual è il testo che sarà licenziato. I grandi dibattiti sono stati proprio sulle misurazioni biometriche, quindi sul riconoscimento facciale, che insomma ha visto alcuni stati volerlo introdurre di più nelle azioni di polizia e altre di meno. Quindi alla fine sono state introdotte delle eccezioni per le forze dell'ordine, manco a farlo apposta. E quindi l'utilizzo si può fare con un'autorizzazione giudiziaria che però può essere richiesta entro 24 ore. Quindi l'agente di polizia può iniziare ad utilizzare le biometrie per il riconoscimento e ha 24 ore per chiedere l'autorizzazione del giudice. Quindi questo è stato fatto per le indagini, chiaramente. Scusa, la questione invece dei CV, della selezione dei CV che dicevamo prima, quella invece è considerata a rischio limitato. Rischio, quindi l'avevi detto, sì, no, e quindi non basta, diciamo, la trasparenza. Ok. Chiaramente è importante, no, che si venga assunti senza discriminazioni. Certo. E quindi è chiaro, certo, che anche in quel caso, invece, siccome sappiamo che sono pieni di pregiudizi, certo, questi sistemi. C'è un bel libro che forse abbiamo anche citato da questi microfoni di Cathy O'Neill, che si intitola Weapons of Math Destruction, cioè armi di distruzione matematica, che racconta per esempio come questi sistemi nella selezione di personale attraverso agenti automatici si possano rivelarsi proprio delle armi di distruzione matematica, no? Perché matematica, perché come detto c'è sempre la statistica dietro, e quindi anche lì ci sono pregiudizi sui dati d'addestramento, e pertanto potrebbero esserci, diciamo, delle condizioni anomale nella valutazione, diciamo, di un curriculum, no? In questo contesto assumo quasi sempre uomini e le donne le taglio fuori, bianchi, per dire, nordamericani, esatto. Oppure attribuisco, che ne so, uno stipendio più l'auto ad un appunto ad una persona alta 1,94 m piuttosto che a una signorina che so di origine asiatica, non lo so, per dire. Quindi ci stanno questi rischi, per cui l'elemento diciamo da normare è proprio questo, esatto. Comunque, tra le applicazioni proibite, appunto, ci sono anche gli scraping di volti e il riconoscimento delle emozioni. Come no? Questo è un tema veramente delicatissimo, no? Quindi, insomma, è possibile per una macchina conoscere le nostre emozioni semplicemente guardando il modo in cui battiamo le ciglia, certo, o muoviamo gli occhi, o muoviamo, certo, la faccia, no? Sì, assolutamente. E quindi, insomma, può essere davvero pericolosissimo come arma nelle mani di un decisore, di una persona più potente, certo, che può scegliere. E comunque, diciamo, l'Europa sicuramente è pioniera in questa, in questo campo, in questa regulation sull'intelligenza artificiale. Non è l'unico provvedimento che esiste in Europa. Per esempio, c'è un altro interessante di cui vi parliamo brevemente, che è il Data Act, quindi la legge sui dati, Data Act 2023, legge 2854, e che rientra pienamente nella strategia europea per i dati e viene, sarà applicata dal 12 settembre 2025. Okay. Anche questa, quindi un paio d'annetti. L'obiettivo di questo ulteriore strumento normativo è l'equità nella distribuzione del valore dei dati, quindi cercare diciamo di favorire la competizione, no? tra le aziende, soprattutto tra diciamo le aziende europee evidentemente, e l'innovazione, in qualche modo anche l'innovazione. E c'è un una parte dedicata all'accesso e all'utilizzo dei dati, e cioè vorrebbero fare in modo che gli utenti e i proprietari delle macchine, di qualsiasi macchina stiamo parlando, una macchina di elaborazione, sì, naturalmente un calcolatore. Appunto anche lo smartphone che abbiamo in tasca, sì, come dicevamo prima, devono poter accedere ai dati generati dai loro dispositivi in qualunque modo, attraverso servizi, attraverso app, attraverso prodotti specifici. Se il dispositivo è di mia proprietà o se ne sono se ne ho il possesso, anche non avendo nella proprietà, quindi lo utilizzo, ho diritto ad accedere ai dati che produco. Questa è una bella, è una bella cosa, insomma, no? Perché non è scontato. No, non è scontato, apre, diciamo, un mondo legato a in che maniera coloro che poi detengono questi dati, perché in un contesto distribuito sappiamo che i dati che noi generiamo poi volano, no? Non su una macchina ma su tante macchine, e riuscire a tracciare, a recuperare. Bene, questo sarà un onere che dovranno assumersi comunque i fornitori di servizi che di quei dati fanno uso. E non è banale, non è banale, perché va avanti il regolamento e dice anche un'altra cosa interessante. Non è banale, lo so, perché ho avuto un'esperienza, diciamo, di contestazione che sta ancora andando avanti con un data broker. L'ho fatto per un esercizio, diciamo, che ho voluto in qualche modo portare avanti, proprio per capire quali sono e quanto si riesca con facilità a far valere i propri diritti nell'interazione con una terza parte che si serve e fa profitto sui dati generati da noi. Dico, noi però siamo possessori, per cui diciamo già il GDPR, che anticipa questo Data Act, dà dei diritti. Allora, questo magari sarà oggetto di una prossima puntata, racconterò questa esperienza. Ok. Divertente. Okay. E attenzione, la cosa interessante è che questi dati che l'utente può richiedere e deve ottenere, l'utente può decidere di condividerli con delle terze parti. Okay. Quindi non con, diciamo, no, non è solo tra lui e la società che glieli ha presi questi, sì, dati. Sì. Ma siccome sono suoi, oltre ad accedere, li può anche dare a qualcun altro. Che sembra una cosa tipo strana, ma è una cosa assolutamente, se ci pensate, no, assolutamente normale. Cioè, che io se ho una bicicletta la posso decidere di dartela, cioè è una mia cosa. I dati sono sempre stati considerati qualcosa di diverso, perché i materiali, allora sì, forse più ci sono anche degli esempi così un po' più concreti, no? Se uno deve fare manutenzione predittiva di qualcosa che ha a casa, che, quindi ha delle misurazioni anche di temperatura, sì, di umidità, magari c'è qualcuno che vende un servizio di manutenzione predittiva e io voglio la differenza è proprio, cioè, nel senso, questo è un elemento per gli ascoltatori importante. Devo essere io, come per ogni altra cosa di cui ho possesso o proprietà, diciamo, a decidere cosa farne. Il tema, diciamo, che invece ha determinato, no, la progressiva acquisizione di potere gigantesco da parte dell'industria big tech, è che tutto ciò che noi individui abbiamo prodotto nei decenni è stato acquisito senza permesso e senza chiedere alcun tipo, senza chiedere conto a nessuno, in maniera assolutamente gratuita. Allora, quello che le norme cercano, queste norme di cui stiamo chiacchierando in questa parte conclusiva di trasmissione, cercano di regolamentare proprio questo, cioè il fatto di darci come dire evidenza dei nostri diritti sui nostri dati, su quello che e le aziende che controllano i dati non dovrebbero discriminare gli utenti che desiderano condividere i loro dati con terzi, perché questo pure è possibile, no? Uno può fare concorrenza, cioè può fare, come si dice, concorrenza sleale, cioè nel senso che fa sì che gli altri non che le terze parti non vengano in possesso, invece no, sono obbligati a farlo. Certo. È una roba chiaramente economica, capitalista in pieno, no? Certo. Però a noi serve perché ci fa capire un po' come si ragiona. Sì, no, esatto, come si ragiona, soprattutto cose, esatto, no? Esattamente, questo ci aiuta questo, molto. Questo è un tema importante, okay. Esattamente questo. Poi dopo noi faremo le nostre istanze, no? E ci ispireremo anche a queste se necessario, no? Ma non lo è, perché abbiamo anche fantasia. Però comunque faremo le nostre istanze. Però intanto vediamo cosa fanno gli stati. Poi c'è tutta una parte sulla protezione dei segreti commerciali, quindi misure contro l'abuso di squilibri contrattuali. Anche qui naturalmente il tema è gigantesco, no? Certo. Quello che ci finisce dentro ai terms of use, ai termini di servizio. E poi c'è l'accesso ai dati da parte di enti pubblici, quindi accesso ai dati privati per compiti di interesse pubblico. Questo naturalmente è un po' controverso, perché appunto può dare può aprire a un controllo poliziesco, comunque una repressione di fatto, no? Però so, questo è quello che l'Unione Europea e i suoi membri chiedono con questo Data Act, consentono più che chiedono. Normalmente ci sono un po' di preoccupazioni per tutta questa iperregolamentazione, no? E anche delle sue interazioni col GDPR, come certo. Dicevamo poco fa, perché è chiaro che quello continua a valere. Certo. E quindi il Data Act è una sua articolazione. Super in chiusura citiamo molto rapidamente il Digital Service Act e il Digital Market Act, sì, di cui avevamo parlato molto tempo. Questo, noi eravamo stati un po' dei pionieri, perché ne abbiamo parlato tipo quasi ormai 2 anni fa, e quando erano già stati, come dire, erano al vaglio della Commissione Europea, mi pare, e adesso sono a tutti gli effetti, diciamo, sono effettivi. È stato istituito questo Centro Europeo per la Trasparenza Algoritmica. Lavorano in Europa, cosa fanno, insomma? Il DSA, quindi il Digital Service Act, parla delle responsabilità delle piattaforme, e quindi una regolamentazione sui contenuti che transitano su queste piattaforme. Per essere concreti, i post che in questo momento state inviando su una qualunque Instagram, delle vostre app, esatto, sì, questi finiscono su i server di una piattaforma, e quindi queste piattaforme sono oggetto di regolamentazione da parte di DSA, intanto, qui, per una serie di ragioni. Naturalmente ci sono anche tante cose controverse anche su questo, perché una piattaforma, specialmente se piccola, no? Fa fatica, no, a mettere in campo una moderazione dei contenuti che possa essere funzionale al rispetto di questa. E infatti credo che ci sia una dimensione, diciamo, ci sia una dimensione in termini di utenti. Sì, l'hanno fatta per due categorie, diciamo, due grandezze di impresa, però per quelle più piccole entra in vigore dopo. Okay. Gli hanno dato solo più tempo, okay. Quindi comunque la direzione è quella lì. Invece il Digital Market Act fa regolamentare la concorrenza nel mercato digitale, quindi ci sono tutta una serie di obblighi e divieti per i gatekeepers, cioè per quelli che sono i guardiani del cancello, no? Che stanno lì, diciamo. Esempio concreto: Google con il tema della ricerca online, no? Google domina il tema di ricerca online, anche se, diciamo, ne esistono molti altri sistemi per fare questo. Cito uno di mio particolare gradimento, che è DuckDuckGo, ma pochi lo conoscono, per esempio, parlando di alternative, no? che ci sono. Certo, e quindi insomma per tutti questi che si tengono in pancia tutti i nostri dati e si guardano bene dal mollarli ad altri, quindi sono dei gatekeepers, stanno lì davanti a piantonare i cancelli dei loro possedimenti, ci sono insomma obblighi a consentire agli utenti di disinstallare qualsiasi software preinstallato e di usare servizi di terze parti, facilitare l'interoperabilità, vietare di utilizzare dati raccolti su piattaforme per scopi competitivi. Diciamo, sono tutte norme che vanno verso il mercato, d'altronde si chiama Digital Market Act, ma servono per capire che questa dimensione normativa comunque intanto la sta esercitando. No, ma il paradosso, tu parlavi, forse per chiudere, siamo in chiusura, diciamo, la cosa che mi viene sempre da pensare, no, quando tu parlavi di approcci, diciamo, con riforme, ok, che magari sono, diciamo, di relativo interesse, no, magari in prima battuta sono di interesse in un contesto in cui non c'era nulla di tutto questo, e per 25 anni c'è stato il Far West. Sì. Quindi, voglio dire, cioè, il Far West no, perché il Far West ha portato, certo, a quello che dicevamo all'inizio. Va bene, siamo andati parecchio lunghi, vabbè, avevamo tanto materiale, ma insomma ancora altro in realtà ne abbiamo prodotto, ma ve ne parliamo nelle prossime puntate. Vi salutiamo qui, salutiamo in particolare chi ci ha ascoltato privato o privata della propria libertà personale, e sottoscrivete per Radio Onda Rossa, la radio che non campa d'aria, ondarossa.info il sito dove potete trovare tante modalità per poter diciamo contribuire, donare alla radio e poter e quindi continuare a farla vivere. E niente, vi salutiamo e l'appuntamento è per il prossimo lunedì con Entropia Massima. Vi lasciamo alla sigla.